Il gastronauta di Davide Paolini. Buongiorno, buongiorno a tutti i gastronauti e radioascoltatori. Ebbene, come ho detto, questa sarà una trasmissione di pro e contro la somministrazione su spazi ed aree pubbliche di alcol, pro e contro le sagre, pro e contro lo spritz già pronto. Bene, visto che è una giornata di grande traffico, sicuramente molta gente sarà in automobile, allora ricordo, chi vuole intervenire, numero verde 800 24 0024, messaggi SMS 349 238 6666. Buongiorno al sindaco di Firenze Matteo Renzi. Buongiorno Matteo. Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori, buongiorno a te. Allora, diciamo che tu ti sei così opposto, hai detto farò disobbedienza civile perché altrimenti il nostro lampredotto fiorentino se ne andrà. Il lampredotto è un panino particolare che viene servito da tre carretti a Firenze, un fatto storico importante secondo me di archeologia gastronomica e quindi sicuramente da salvare. E come è andata a finire? Quindi è iniziato il divieto? No, siamo riusciti a fare una cosa che diciamo che ha supplito al problema, nel senso che nel recepire una normativa europea scritta maluccio, ma recepita ancora peggio dal livello italiano, dal nostro Parlamento, di fatto si sarebbe impedito con una corretta interpretazione della legge a tutti i nostri chioschi che fanno il panino con lampredotto di accompagnare il panino con il gottino, con il bicchierino di vino, con in nome della lotta all'alcol si impediva un rito, perché a Firenze il panino con il lampredotto, con il bicchierino di vino, non è un momento di alimentazione, è un fatto culturale, è un rito. E allora noi abbiamo, prima, quando abbiamo visto la norma, ci siamo un pochino innervositi, diciamo così, e abbiamo annunciato la disobbedienza civile. Poi abbiamo fatto una cosa forse più saggia, perché nella giunta comunale che si è svolta il giorno prima dell'entrata in vigore della norma abbiamo fatto un atto, una delibera nostra, per cui attraverso un sotterfugio legislativo di fatto a Firenze si continua a bere il gottino di vino insieme al panino con lampredotto. Beh, diciamo che è un regolamento che penalizza non solo Firenze, ma penalizza anche tanti altri prodotti come a Palermo i carrettini delle panelle, cioè quindi di Cammeusa, quindi tanti altri paesi anche italiani dove c'è questa tradizione, e anch'io sono d'accordo culturale. Ma sentiamo, perché c'è il presidente della FIPE Confcommercio di Savona, Pasquale Balzola, che sostiene che assolutamente questo divieto praticamente non è assoluto, la divieta degli alcolici negli spazi pubblici, è così? No, il divieto, la norma è stata non è stata correttamente interpretata da qualche altra associazione concorrente. Infatti, per quanto concerne le fiere, le feste, i mercati, le sagre, le riunioni di partito, le manifestazioni organizzate da proloquio, ogni riunione straordinaria di persone svolte su area pubblica, è possibile vendere e somministrare alcolici, in quanto è prevista dalle singole leggi regionali la presentazione di una DIA per la somministrazione, cioè bisogna comunicare all'autorità comunale che questa manifestazione si svolge, una DIA che è un documento di inizio attività. Questa è la situazione, è possibile oltretutto somministrare anche sui chioschi, aree mercatali, stabilimenti balneari, quindi è invece vietata la vendita per l'ambulanzato, cioè in tutte quelle situazioni in cui non ci sono quei requisiti per poter somministrare alimenti e bevande. Quindi la cosa è stata, la comunicazione è stata mediatica, è stata sicuramente mal interpretata, e quindi la FIP con commercio ha sicuramente riportato tutto sul binario giusto. Quindi ricordo il numero verde 800 24 00 24. Matteo, ha sentito? Sì, io ho sentito. In realtà il dibattito è stato molto acceso, perché anche il parlamentare che ha scritto, diciamo il relatore della legge, ha sentito il bisogno di precisare, tant'è vero che ha dovuto fare lui un emendamento. Quindi non entro nel merito dell'interpretazione tecnica. A mio giudizio c'è un rischio, che è un rischio politico e culturale, che è quello che le nostre tradizioni enogastronomiche siano in qualche modo sacrificate, in particolar modo nel recepimento di alcune direttive europee, sull'altare dell'omologazione, che è un'omologazione innanzitutto, ripeto, culturale prima ancora che enogastronomica. E allora in nome della lotta all'alcol magari si restringe la possibilità semplicemente di servire il bicchierino di vino, però e io sono anche un sostenitore della Coca-Cola, però per la Coca, per tutte le altre bibite, per il McDonald's, per tutti i vari grandi brand mondiali non ci sono mai problemi. Ecco, io da sindaco di Firenze dico, per me, per la città, che è una città che ha un grandissimo patrimonio culturale e artistico, anche un certo modo di interpretare l'alimentazione costituisce cultura, e quindi noi siamo comunque sempre in prima linea per difendere questo. Poi che quella norma potesse essere scritta meglio non c'è ombra di dubbio, che poi tra Confcommercio e Confesercenti si siano messi a discutere su qual era l'interpretazione più corretta, ovviamente lo lascio alla libertà delle categorie. Noi abbiamo fatto un atto, con quest'atto dal giorno dopo a Firenze si può comunque vendere il bicchierino di vino. Naturalmente ai ragazzi dico, occhio a non esagerare con l'alcol, ma esagerare con l'alcol non significa bere un bicchierino di vino insieme al panino con l'Ampredotto. Bene, grazie al sindaco di Firenze Balzola. Poi parleremo di sagre, quindi cioè anche le sagre sono salve da questo? E le sagre sono salve. Pronto? Sì, prego. Le sagre sono salve, chiaramente sulle sagre il discorso è più articolato e bisognerebbe approfondirlo, cioè noi siamo favorevoli alle sagre che valorizzano tutto quello che è il patrimonio regionale e gastronomico, siamo contro quelle sagre che sono fatte esclusivamente per creare per lucrare sull'attività sulle attività di somministrazione, quindi noi siamo contro chi vuole fare speculazioni, quindi la sagra deve rimanere fine a se stessa, cioè promuovere le specialità regionali, quindi anche sotto il profilo turistico c'è una certa valenza a far conoscere la nostra cucina, le nostre specialità alimentari che sono regionali, che sono eccezionali, mentre altre nazioni hanno soltanto una cucina nazionale, noi abbiamo la fortuna che in tutta Italia abbiamo delle tante cucine regionali, una più buona dell'altra, che ci hanno resi anche famosi nel mondo. Bene, la ringrazio perché di questo argomento lei lo ha introdotto. Ora, dopo che passeremo la linea per capire cosa succede nelle strade italiane, oggi è un giorno molto importante, discuteremo proprio di questo e leggeremo diversi sms che ci sono arrivati. È un radioascoltatore che è in questo momento in linea. Fabrizio, attenda Fabrizio, torneremo fra poco. Grazie a Pasquale Balzola, via con le strade. Il gastronauta. Eccoci di nuovo a parlare di tanti argomenti. Abbiamo appena finito a parlare di distribuzione dell'alcol negli spazi pubblici e nelle aree pubbliche, e devo leggere un sms che è arrivato. Tanto casino per l'alcol ai giovani, basta vedere negli altri paesi in Europa. Vivo a cavallo con la Svizzera, dove è severamente vietato sempre il divieto di vendita al di sotto dei 18 anni. E poi ancora diciamo che ce n'è una sulle sagre, siccome discuteremo di questo la leggo subito. Mi vanno bene le sagre, però voglio anche libera apertura di farmacia, notaio e tutte quelle attività numero chiuso in ristorante sono di serie B. Beh, non si capisce molto bene, caro Agostino, magari intervieni e raccontaci il tuo pensiero. Ricordo numero verde 800 24 00 24. Cominciamo a parlare di sagre con Ruggero Bonometti, che è segretario dell'ARTOB, Associazione Ristoranti, Trattorie, Osterie Bresciane, e vicepresidente del Consorzio Cuochi di Lombardia, nonché ristoratore, che diciamo ha aperto le danze sul discorso di discussione delle sagre, dicendo appunto che le sagre in un certo senso sfavorivano la ristorazione. Buongiorno Ruggero Bonometti, a lei. Buongiorno a voi, buongiorno a tutti. Mi dica. Le sagre sono per noi diciamo una concorrenza sleale, non vengono diciamo, come si dice, controllate, non vengono minimamente tassate, cioè tutto un casino unico. Se dicono che valorizzano il territorio, io non sono un po' contrario su questo. Sinceramente i numeri ci danno ragione. Confesercenti ha stilato dei numeri che nel bresciano siamo a livello di 1500 sagre, feste politiche, di tutto di più, in un periodo periodo che va da 5 mesi, cioè tutti quelli estivi. Poi i ristoratori in questi mesi non è che possono chiudere 5 mesi, già la crisi risica, diciamo, quel che sono i guadagni e tutto questo, e si manda comunque in difficoltà, perché dicono che non può fare concorrenza alle sagre, perché dicono che non è certo un ristorante. Invece a me mi risulta l'inverso, mi risulta che queste fanno di tutto di più, fanno da spiedi a tori a qualsiasi maniera, di tutta cucina che comunque ci porta via canzoncellate varie. E siamo comunque a un livello adesso che stiamo arrivando all'esasperazione, non è possibile una roba del genere. Bene, diciamo. Bene, abbiamo sentito il primo parere, poi esprimerò anche il mio. Sentiamo un radioascoltatore, Fabrizio dalla provincia di Cuneo. Buongiorno Fabrizio. Buongiorno, innanzitutto complimenti. No, io volevo dire una semplice cosa, che secondo me si sta esagerando con questi divieti. Io sono contrario ai divieti. Diciamo che ogni governo che si succede ora vuole diventare istruttore di vita e di moralità. Questo mi sembra eccessivo. Noi tutti, io ho 40 anni, per carità, quando avevo 16-17 anni, bevevamo con gli amici, cioè, però si faceva attenzione a non esagerare. Ora vogliono vietare tutto di tutto e non capiscono questa gente che comunque i giovani compreranno, per dire, il vino bianco frizzantino prima di uscire al supermarket, lo faranno comprare dal suo amico e berranno comunque, non è questo il discorso. Bene, prego. Quindi per terminare volevo dire che anche vietare, diciamo, la vendita in pubblico di alcolici, cioè, quindi qua si eccede proprio, si supera il limite. Perché le sagre sono una cosa che va avanti nel tempo da centinaia di anni, e queste leggi pongono dei seri limiti alla vita di tutti i giorni, che noi, cioè, tutti lavorano, tutti hanno voglia di spendere un'ora di divertimento la sera, non si può più uscire né con la macchina né addirittura a piedi, in bicicletta. Bene, bene, abbiamo capito Fabrizio, abbiamo capito la sua posizione. Sentiamo anche Carlo da Milano, un altro radioascoltatore. Buongiorno Carlo. Buongiorno, la ringrazio per avermi chiamato e un saluto a tutti gli ascoltatori. Vorrei riportare la conversazione sullo specifico, cioè sul divieto di vendita di mescita di alcolici da parte degli ambulanti nelle varie manifestazioni, ma anche e soprattutto nei chioschi che sono aperti in alcune città d'Italia e in molte città d'Europa per la vendita di quello che non conoscevo, il lampredotto fiorentino, ma che potrebbe essere il Würstelkonkraut in Alto Adige, in Austria o in Baviera, piuttosto che non la ringa cruda o la ringa fumicata nei paesi del nord Europa. Trovo che questo sistema di uniformazione dell'Unione Europea sia sinceramente fra il miope e il controproducente. Non credo proprio che una mezza birra, una birra insieme a un panino, piuttosto che non un bicchierino di vino rosso o uno schnapps insieme a una ringa possa essere causa di disturbo sociale. Carlo, la interrompo perché abbiamo capito esattamente il suo pensiero, ma abbiamo tante telefonate, quindi grazie, abbiamo capito la sua posizione, sicuramente ben precisa e ben chiara. Continuiamo a parlare di sagre e ora sentirei Donatella Lavelli, che è presidente della Proloco di Gorgonzola, organizzatrice della Sagra del Gorgonzola. Buongiorno signora Lavelli. Buongiorno Paolini, tutto bene? Sì, grazie. Grazie. Allora, ho sentito la diatriba, ho letto, ho seguito con interesse, mi sentivo presa in causa in quanto presidente della Proloco e organizzatrice appunto della sagra. Vorrei rispondere all'altro interlocutore, di cui non ricordo il nome. Sì, forse Bonometti probabilmente. Che comunque secondo me le sagre sono un'espressione del territorio, ma lo sono nella misura in cui valorizzano le risorse del territorio, e mi spiego. Gorgonzola non è, faccio riferimento alla mia esperienza chiaramente Paolini, Gorgonzola non è una località turistica, si deve ancora riscoprire sotto questo punto di vista, e forse tanti problemi noi legati alla ristorazione possiamo non averli, però noi da quando abbiamo iniziato ad organizzare la sagra del Gorgonzola la prima cosa che abbiamo fatto è stato cercare il contatto col territorio, e quindi i nostri ristorantori partecipano attivamente alla sagra, quindi propongono dei menu a base di gorgonzola a prezzo concordato, magari ridotto, altre che so io cucine, altri negozianti partecipano al famoso Gorgo Pass, per cui preparano delle degustazioni, e noi in piazza non andiamo a fare nient'altro, quindi non trattiamo alimenti se non l'assaggio di gorgonzola sul crostino di pane, giusto per far capire il prodotto. Quindi ci possono essere, secondo me, dei sistemi e dei modi per valorizzare veramente gli esercenti che sono i ristoratori, tutte le risorse veramente che un paese, una città ha. Bene, bene, grazie signora Lavelli. Sentiamo Francesco da Pisa. Buongiorno Francesco. Buongiorno Paolini, complimenti per la trasmissione. Niente, il mio intervento è una domanda secca. Ma questi organizzatori di sagre, l'865, i piani di autocontrollo, la tracciabilità dei prodotti, la rispettano? A me risulta di no, forse sono mal informato. Ma io vedo che sono d'accordo con quel ristoratore che diceva fanno di tutto e di più e non fanno certo bene al territorio. Io capisco il discorso della Presidente della Proloco di Gorgonzola e sono d'accordo con lei. Quando la sagra è specifica, un po' come in Toscana, greve la festa del vino, lì non penso che i ristoratori siano tutti ben felici di avere la festa del vino a Greve, ma perché sono strutturate, organizzate e fatte bene. Ma il resto dell'Italia, io parlo per la Toscana, guardi, si vede di tutto, di più. Bene. E certo non è un bel vedere. Francesco, lei secondo me ha proprio centrato un po' l'obiettivo. Allora voglio fare una premessa prima di continuare. Conosco molto bene le sagre perché ogni anno io faccio un libro sulle sagre, quindi faccio una selezione delle sagre che sono espressione del territorio, espressione dei prodotti del territorio. Io credo che queste siano le uniche vere, le uniche autentiche, quelle che hanno salvato in giro per l'Italia tantissimi prodotti, che se ne dica. Cioè molti prodotti sono stati conosciuti dai consumatori italiani, dai ristoratori italiani, grazie alle sagre, perché per anni sono state l'unica antenna che ha fatto qualcosa per valorizzare i prodotti. Poi sul carro del vincitore tutti sono saliti, ma 20-25 anni fa certi prodotti erano sconosciuti. Un caso esemplare è proprio in Abruzzo, a San Stefano di Sessanio, con un prodotto particolare che sono le lenticchie, che è veramente quel paese è stato salvato, quel borgo è stato salvato dall'annullamento. Sarebbe completamente morto se non ci fosse stata la sagra che ha fatto conoscere le lenticchie. Così pure la patata rossa di Cetica in Toscana è un altro caso esemplare. Quindi bisogna fare dei grandi distinguo. È evidente che le sagre non sono le feste di paese, non sono la festa del ranocchio, la festa delle lumache, perché assolutamente non sono grande espressione del territorio. Bisogna andare sui prodotti e i prodotti autentici, allora lì sì che c'è la grande sagra. E ci sono molte manifestazioni che portano sicuramente nei territori, e ci sono dei dati esemplari su questo, dal punto di vista economico generano valore che altrimenti non ci sarebbe, altrimenti anche molti ristoranti non avrebbero sicuramente un'occasione indiretta di lavorare. Bene, continuiamo dopo questa premessa, ma sentiamo Claudio Nardocci, presidente dell'Unione Nazionale Proloco d'Italia. Buongiorno Nardocci. Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Voi siete, se non erro, l'associazione che raggruppa molte sagre, o mi sbaglio? Beh, noi raggruppiamo 5.600 delle Proloco esistenti, delle 6.000 Proloco esistenti, quindi siamo l'unico ente a livello nazionale che fa un'attività poi di supporto. Ho piacere che il discorso stia andando verso alcune specifiche che non erano state accennate nelle varie dichiarazioni della FIPE, eccetera. Quindi si va verso un discorso di qualità che noi ormai abbiamo sposato tanti anni fa. Quindi? Quindi lei dice ci sono sagre. Noi sono 5 anni che distribuiamo un manuale di corretta prassi igienica a tutte le nostre associate, e che ci è costato 2 anni di lavoro perché è approvato anche secondo le norme della Comunità Europea, quindi c'è stato un anno e mezzo di attesa per approvare questo manuale, che quindi dà la tracciabilità del prodotto. E siamo in corretta prassi igienica per quanto riguarda le nostre associate. Per quanto riguarda poi il resto, Anche qui c'è un discorso da fare molto importante. Tanti paesi, come diceva lei, sono diventati il paese del pomodoro, il paese del prodotto tipico, e la sagra dura 3 giorni e non una settimana di media come è stato scritto, e in questi 3 giorni può essere che c'è uno stand gastronomico che serve poi per promuovere il prodotto tutto l'anno, e i ristoratori ne beneficiano per tutti gli altri. Nardocci, la devo interrompere perché devo passare la linea alla regia. Prego Bonometti di rimanere con noi, quindi anche Alessandro da Torino, un radioascoltatore. Torneremo fra poco. Il gastronauta. Eccoci di nuovo, stavamo parlando di sagre, ma ci sono molti sms che continuano ad arrivare anche sul vino, diciamo sull'alcol, uno contrario all'altro. C'è chi è pronto, chi è a favore, quindi sicuramente molto discutibile questo fatto, ma sicuramente i controlli vanno molto bene dopo tutto quello che succede sicuramente nelle strade italiane. Sentiamo Alessandro da Torino, un radioascoltatore. Buongiorno Alessandro. Buongiorno a voi, buongiorno a te Davide Paolini, vi ascolto sempre con grande piacere. Bene, allora, noi siamo in autostrada, stiamo andando giù verso le Marche, io, mia moglie e la mia bambina, dove speriamo di trovare tante belle sagre e di poter gustare della cucina locale. Ecco, parlando di sagre contro ristoranti, secondo noi alla fine quello che conta è la qualità. Con mia moglie abbiamo avuto la passione delle sagre per tanti anni, parlo di 7-8 anni fa, e ne abbiamo visitate parecchie, alcune veramente eccezionali sulle colline toscane, altre sulle colline. Una volta abbiamo fatto 80 km, 90 km da Torino per andare a una sagra di funghi fra le montagne dell'Appennino marittimo, delle Alpi marittime, fra la provincia di Alessandria e la provincia di Genova. E alla fin fine, dopo un po' di tempo, ci siamo resi conto che comunque tante sagre non è che avessero tutta questa qualità. Certo. Sia nel cibo sia nel vino, anche perché ci sono delle sagre dove ci sono anche degli ottimi bene, vini. Bene, grazie Alessandro. Io voglio chiedere poi a Nardocci, ma io credo che è venuto il momento forse di regolamentare le sagre, cioè anche le proloco dovrebbero far sì che esistano solamente sagre, dare il nome a queste sagre, quelle che valorizzano un prodotto locale, non un piatto, non una grigliata così generica, ma veramente un qualcosa di locale garantito. Che sia un prodotto e non sia una magnata, non sia una, come diceva giustamente qualche radioascoltatore, così, che non sia un qualcosa di particolare come una grande grigliata oppure un pesce fritto o d'altro, ma un prodotto vero. Cosa ne pensa Nardocci? Ma guardi, noi stiamo andando da ormai più di un secolo che organizziamo sagre, quindi insomma un po' ci capiamo su questa storia. Stiamo andando da tempo, come le dicevo, verso un discorso di qualità. Noi siamo felici di specificare, perché circa il 50% delle sagre è fatto da noi, è fatto organizzando in una certa maniera, organizzato da persone che lavorano tutto l'anno per quei 3 giorni, e quindi non sono cose estemporanee, non sono il comitato che scompare. d'accordo Nardocci, ma secondo me ci vuole anche una disciplina su ciò che si mette come sagra, perché non si può mettere la sagra del ranocchio o la sagra del tortello fritto magari in 100 paesi, cioè quel paese deve avere queste caratteristiche. Guardi, la presidente della Provo di Gorgonzola ha centrato l'obiettivo: bisogna lavorare insieme al territorio per proporre una sagra di qualità, e io penso che le prologo in questo siano maestre e che continuino a portare avanti il loro discorso. Le prologo non fanno 10 sagre l'anno, ne fanno una, la fanno fatta bene e la fanno secondo le indicazioni del territorio, bene, prendendo quello che c'è di meglio del territorio, bene, che poi, come le dicevo prima, ha dei benefici per tutto l'anno. Per esempio la sagra del carciofo di Ladispoli c'è una per 15 giorni c'è la settimana gastronomica, certo, e tutti i ristoranti sono coinvolti e propongono dei menù a prezzi concordati. Bene, grazie Nardocci, grazie Nardocci, speriamo che seguano i fatti. Grazie, sentiamo di nuovo Ruggero Bonometti che è stato ad ascoltato. Lei ha detto delle sante verità, cioè le sagre manifestazioni, ci sono delle manifestazioni sagre che vengono pubblicizzate dal tipo Italia Tavola, delle riviste specifiche del settore pure pubblicizzano queste sagre che sono veritiere, dove valorizzano veramente il prodotto. Noi non siamo, noi ristoratori non siamo contro le sagre, fanno parte della nostra tradizione e non possiamo negarle, però adesso sei esasperato come dice lei, la sagra del ranocchio è ridicola, sono delle cose ridicole che fanno solo per incassare soldi, certo, che non servono a niente. Lì fanno solo vendite e fanno ristorazione che va contro la vera e propria ristorazione. È questo che fa male alla ristorazione, non sono le sagre veritiere. Noi abbiamo delle sagre anche qua nel Bresciano, che sono come la Franciacorta in bianco, sono tutte queste sagre che danno valorizzazione al prodotto, certo, fanno riscoprire al turista il vero prodotto e se lo portano anche a casa e sono contenti. Ma le sagrettine, quelle che poi sono per tirare su l'oratorio e per altro, per quell'altro, non servono assolutamente niente. Bene, grazie Bonometti, grazie. Sentiamo Daniele D'Ascoli Piceno, buongiorno. Buongiorno, io vorrei contraddire il suo ospite, perché la funzione principale delle sagre è quella di far bene al territorio, non al ristoratore o a quelle persone che poi si applicano più delle volte gratuitamente, e lo fanno per creare un surplus a livello sociale, perché questi guadagni che vengono poi reinvestiti nel territorio in attività appunto sociali che portano grandi vantaggi, quali gli oratori, quali attività che possono far crescere e far imparare ai ragazzi magari il valore del lavoro e del sacrificio e più delle volte appunto del volontariato. Bene, grazie. Pertanto io credo che le sagre servono a questo. Daniele, lei ha perfettamente ragione, cioè le sagre attirano sul territorio, fanno conoscere i posti e generano valore. Mi scusi se l'ho interrotta così, però ho tantissime telefonate e tantissimi ospiti. Allora ora sentiamo Fausto Fratti. Fausto Fratti è un ristoratore e patron dell'osteria Povero Diavolo a Torriana. Ebbene, questo ristoratore è l'inventore, l'organizzatore di una festa al suo paese che si chiama Scorticata. Buongiorno Fausto. Buongiorno Davide, buongiorno a tutti. Tu hai sentito un po'? Sì, ho sentito e sono in bilico, perché sono sia favorevole che contrario, chiaramente. Io, te sai come la penso e ragiono rispetto alla qualità, quindi sono contrario a tutte quelle iniziative, manifestazioni, chiamiamole pure sagre, che non sono rappresentative del territorio, non esprimono qualità e non danno niente alla gente che vi partecipa. Sono favorevoli invece chiaramente a manifestazioni che riescono a far conoscere, a trasmettere al pubblico un qualcosa di nuovo, di diverso. La nostra ad esempio non è una sagra tipica di un prodotto locale, eccetera, è una manifestazione che si chiama Scorticata alla Collina dei Piaceri, e per l'occasione, alla durata di 3 giorni, stiamo smontando, è finita ieri sera, fra l'altro con un ottimo successo, e facciamo arrivare grandi professionisti, grandi artigiani, maestri di cucina un po' da tutta Italia, quindi dando la possibilità all'anziano, al signore che vive in zona, che non riesce ad esempio a volare in Sicilia, è facile, ma non tutti possono farlo, quindi di gustare una cassata siciliana fatta da un grande pasticcere, così pure come gustare un prodotto di un altro territorio, che può essere Pigello, fritto, in quanto ieri sera c'era anche un'osteria di Reggio Emilia. E sul fatto che i ristoranti rivendichino questa situazione così di difficoltà, potrei anche essere d'accordo, però nel nostro caso ad esempio abbiamo signori ristoratori, cioè ristoranti di grande città a livello nazionale, territoriale, che partecipano con piacere alla nostra manifestazione, perché danno la possibilità di far conoscere il proprio locale e allo stesso tempo la gente ha la possibilità di mangiare un grande piatto cucinato in piazza, però da un grande ristorante. Allora ricordiamo la scorticata a Toriana. Ora abbiamo con noi, anzi volevo ricordare che mi viene segnalato il 25, 26, 27 a Montecatini di settembre c'è una manifestazione che si chiama Territori in Festival, dove il venerdì 25 nel pomeriggio ci sarà un dibattito proprio sulle sagre, quindi credo tutti gli interlocutori che hanno partecipato sia interessante partecipare a questo dibattito ad hoc, e c'è la rappresentazione di tutte le sagre vere italiane, quindi a Montecatini 25, 26, 27 settembre. Sentiamo Michele Corti, il professor Corti, professore di zootecnia dell'Università Statale di Milano, nonché un grande ruralista, studioso della diciamo realtà rurale. Cosa ne pensa? Buongiorno Michele Corti. Buongiorno Davide, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Volevo chiederti appunto cosa ne pensi delle sagre, se indiscriminate oppure bisogna scegliere. No, sicuramente in questi anni abbiamo visto un'esplosione di eventi spuri che con lo spirito della sagra nulla hanno a che fare. Abbiamo iniziative di tipo puramente commerciale che sfruttano questa domanda di sagra, domanda culturale, domanda di occasioni conviviali, per invece semplicemente commercializzare dei prodotti di dubbia qualità e fare cassa. E quindi è venuto il momento di intervenire distinguendo quello che è la sagra da quello che si camuffa per tale e che invece a tutt'altri scopi. Ma infatti io sono d'accordo, secondo me per dare questa definizione di sagra ci vorrebbe più o meno una regolamentazione, cioè cosa deve esprimere la sagra? La sagra deve esprimere il territorio, un prodotto del territorio, quindi sicuramente ormai sono proliferate, tutte si chiamano sagre e non si distingue più il vero dal falso. Comunque sentiamo Marco da Torino, buongiorno Marco. Buongiorno. Io volevo un po' riportare però il discorso sulla normativa europea, perché in realtà la normativa europea riporta un problema molto importante, che è quello dei danni da alcol. Cioè tutta questa discussione nasce in virtù sul fatto che c'è un'attenzione a livello mondiale, a livello dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, io mi permetto di fare questa discussione perché faccio il medico, su un crescente problema riguardo all'alcol, che non è solo il fenomeno dell'alcolismo, ma è proprio il fatto che è un consumo di alcol. Noi parliamo adesso qui di un consumo di qualità, ma purtroppo il consumo di alcol è spesso un consumo non di qualità. E allora un bicchierino è però un bicchiere, una mescita, è un'unità, e chi vende alcol, specie in queste sagre, come voi dite, non così, diciamo, doc, non fa attenzione se poi ne vende uno, due, tre o più. E la quantità di alcol che un organismo umano sopporta nella vita, purtroppo, non è illimitata. E allora fare una maggiore attenzione, visto che ormai i dati ci dicono che i più giovani cominciano sempre prima e che l'organismo umano sopporta l'alcol per 20 anni e non di più, è una cosa assolutamente che bisogna ormai prenderne coscienza. D'accordo con lei. Pensando che poi, se pensiamo che nei nostri autogrill vendiamo del vino che è in cassette, che non ha assolutamente nessun senso, né per creare una cultura del buon bere, né per abbassare il numero di 14 morti sulle strade che abbiamo tutti i giorni in Italia, credo che vietarne assolutamente la vendita e la somministrazione, quantomeno negli autogrill, sia una norma assolutamente di buon senso. Grazie Marco, io sono d'accordo con lei che anche sulle sagre e altre manifestazioni di piazza ci dovrebbe essere una regolamentazione su tutto, non solo sul nome, ma non solo sul prodotto, ma anche su questo. Grazie a Marco, ora devo passare la linea alla viabilità, perché sicuramente ci saranno notizie che interessano i nostri radioascoltatori. Grazie al professor Corti. Il gastronauta. Eccoci ancora a parlare di argomenti pro e contro, le sagre, l'alcol. Federica da Firenze, buongiorno. Buongiorno a voi. Dunque, io volevo soltanto dire che gli italiani, fino a che accorreranno numerosi alla sagra della patata fritta, cosa io ho visto poco tempo fa attaccata al muro che reclamizzavano la sagra della patata fritta, è chiaro che quelli ci vanno e quelli continuano a friggere le patate, magari sempre nello stesso olio. E poi fanno la sagra del fungo porcino, in periodi in cui i funghi porcini in Toscana, terra di porcini meravigliosi, non crescono perché c'è un secco che porta via. Allora che fanno? La sagra del fungo porcino per friggere i funghi e vengano dalla Romania? Bene, io sono d'accordo con lei, l'ho detto prima, bisogna regolamentare, cioè la sagra delle patate fritte non ha senso, ha senso la sagra della patata dicetica senza che sia fritta ma ha fatto conoscere il prodotto. Le degenerazioni sono appunto queste che lei così ci ha illustrato e sulla quale concordiamo pienamente. Bene, sentiamo Enzo Monaco. Enzo Monaco è il re del peperoncino, colui che ha lanciato il peperoncino in questi anni, anche organizzatore della sagra del peperoncino a Diamante. Buongiorno Enzo. Buongiorno a voi. Enzo, a te. Ma allora, devo dire che per molti versi i problemi che sono stati sollevati dagli amici di Brescia e di Bergamo sono validi, senz'altro. Io devo dire però che questi problemi noi da noi non li avvertiamo per niente, intanto perché loro giustamente pongono alcuni punti che sono oggetto di regolamentazione. Noi, ma sulla base della nostra esperienza, dobbiamo dire intanto che c'è una grandissima collaborazione, un clima di grande amicizia con i ristoratori, intanto perché i ristoratori fanno, nei giorni in cui noi facciamo la sagra del peperoncino, loro fanno dei menù a tema sul peperoncino, e poi perché nel nostro evento c'è tutto ci sono piazze di strada, per cui evidentemente il pubblico è differenziato. Chi vuole sedersi e mangiare un piatto col peperoncino va al ristorante, chi invece si accontenta di mangiare un panino camminando in mezzo agli stand va negli stand. Quindi c'è un rapporto di grande collaborazione con i ristoratori. Poi devo dire che noi, essendo l'Accademia del Peperoncino che organizza l'evento, è una onlus, quindi come tale può una volta all'anno fare, per la sua iniziativa istituzionale, può essere esentata da tutti gli aspetti fiscali che normalmente invece alle quali devono essere sottoposte le normali attività commerciali, per cui non abbiamo problemi di questo tipo. Anche noi però ci diamo da fare per tutelare l'ambiente, certo. Abbiamo la raccolta degli oli che facciamo a nostra cura, supportiamo il comune con oneri da parte nostra per la raccolta della spazzatura, curiamo gli aspetti igienico-sanitari, quindi probabilmente da noi questo non avviene, questi problemi non si avvertono perché noi facciamo un evento all'anno, certo. E quello che mi colpisce nella situazione della Lombardia è l'elevato numero di manifestazioni, voglio dire, da noi questi problemi non esistono in Calabria, credo un po' perché è molto ridotto il numero degli eventi e poi perché, voglio dire, sono degli eventi ben mirati e ben caratterizzati, voglio dire, c'è la sagra del peperoncino, poi c'è quella della cipolla rossa di Tropea, poi c'è quella del prodotti veri, stiamo parlando di prodotti veri, Enzo, quindi questo è il modo migliore, come hai raccontato tu, di coinvolgere diciamo il territorio, questa è la vera sagra. Ma sentiamo anche Pietro Bellini, che è l'organizzatore della sagra del prosciutto di Norcia e mi sembra che sia sindaco di Preci. Buongiorno Bellini. Buongiorno. Sì, volevo sapere anche da voi se dà problemi la sagra oppure se porta gente nel territorio. Ecco, dunque dal punto di vista dell'organizzazione delle sagre anche qui in questo territorio, ma in Umbria tutta, si è aperto un dibattito molto forte tra ristoratori e organizzatori. Nella fattispecie di Preci, qui è il comune di Preci che organizza direttamente questa manifestazione, che non l'abbiamo definita sagra, ma è un'iniziativa di promozione dei prodotti tipici, soprattutto del prosciutto IGP di Norcia. Questa è la motivazione principale per cui 10 anni fa io ideai come sindaco d'allora questa manifestazione. Ci sono delle particolarità, i rapporti con i nostri ristoranti sono eccezionali, la manifestazione, questo evento ha portato sul territorio per 3 giorni una presenza notevole di curiosi, di amanti del gusto, perché in questa manifestazione noi promuoviamo i prodotti tipici, quindi abbiamo si poteva degustare la lenticchia, il farro, i prodotti del luogo e il prosciutto. Bene. Ci siamo limitati solo a queste tre. Mi sembra giusto, ma questa è la vera sagra, le altre sono fasulle. Grazie Pietro Bellini. Giorgio Menna è un collega bolognese, vedo che ci sta chiamando. Giorgio, ti prego solo, tu che fai radio, ti do un minuto perché ho tantissime telefonate. Ti ringrazio, grazie Davide, sempre molto attento nell'informazione, questo è doveroso dirlo e grazie di questa argomentazione, perché oggi le cosiddette sagre o iniziative in Italia sono oltre 9.000, manca una regolamentazione. Noi dell'associazione Noga abbiamo scritto una proposta quasi di legge, ci siamo azzardati a fare questa, che presenteremo per tentare un riordino in questo comparto. Le sagre oggi basta fare un giro e vediamo esposizioni di bancarelle dei cinesi e quant'altro, queste certo. Sono la maggior parte delle sagre in Italia, mentre ce ne sono di serie che esprimono e promuovono giacimenti, pensiamo a Mortadella Prise, scusa se mi autopromuovo perché lo facciamo con tanto sacrificio, promuoviamo un giacimento enogastronomico che è la mortadella a Bologna e tantissime altre in Italia, quindi manca una regolamentazione, noi addetti ai lavori dobbiamo darci da fare per arrivare a questa legge, basta sagre inutili che non servono a nulla. Io credo che appunto questo evento a Montecatini il 25 di settembre possa essere il momento appunto per stilare anche un documento per poterne discutere, lo ricordo, si chiama Territori in Festival, ci sarà un dibattito in cui tutti sono invitati quindi a discutere di questo e magari di formulare anche delle proposte. Sentiamo Alberto dalla provincia di Pisa, buongiorno Alberto. Sì, buongiorno Paolini, salve. Un breve intervento a proposito dell'argomento sagre. Sì. Pochi minuti fa lei ha detto che giustamente, perché condivido gran parte delle cose dette finora, le sagre andrebbero un po', come dire, sfoltite, lo dico alla toscana, no? Nel senso che magari un unico prodotto viene è oggetto di un certo numero di sagre in tutta Italia, a volte esagerato, quindi anche dove a volte non è un prodotto tipico. Questo è vero in generale, però ecco. Bene, caduto il nostro Alberto dalla provincia di Pisa, bene, abbiamo capito però cosa voleva dire. Io mi devo scusare, lo faccio pubblicamente, con Alberto Serena, vicepresidente di Montelvini, e Chiara Stival, del responsabile della comunicazione della cantina Moletto, perché non riuscirò a parlare dello spritz, era un argomento che mi premeva molto con quello che sta succedendo. Rimandiamo alle prossime puntate questo argomento, mi scusino, ma siamo pieni di telefonate di radioascoltatori e di sms sulle sagre. Volevo dire che delle sagre ci sono moltissime telefonate che diciamo sono molto provocatorie nel verso i ristoratori, io non sono molto d'accordo, dicono di fatto ce ne sono una decina che dicono è momento di crisi e se la prendono ora con le sagre perché non se la sono presa prima. Questa devo dire che probabilmente anche prima c'erano queste rimostranze, ora ovviamente si sono fatte più forti, quindi non farei un collegamento diretto, ma la cosa più divertente è che un radioascoltatore ci dice che sagra vuol dire festa, gente che si incontra, che si sposta, non vuol dire solo cucina e mangiare. I miei genitori si sono conosciuti ad una sagra, quindi da paesi diversi. Bene, diciamo che questa nota così di colore divertente fa anche molto piacere. Ma siamo alla conclusione, purtroppo diciamo che abbiamo tante telefonate in arrivo. Io ringrazio Enzo Monaco e della sua sagra, che è sicuramente sempre stata una delle più importanti e ha fatto conoscere il peperoncino non solo in Italia ma in tutto il mondo. Bene, siamo sul finire, io ringrazio i radioascoltatori, do appuntamento domani alle 10 con la replica di questa trasmissione, alle 12:15 con il Wine Bar del Gastronauta e anche in agosto tutti i giorni con le pillole e tutti i sabati con la trasmissione. Quindi vi ringrazio la regia, ringrazio Gigi e vi auguro sicuramente un buon weekend, nonostante magari molti di voi siano nelle strade italiane, speriamo magari che ci sia stato così un esodo intelligente. Buon weekend e buone vacanze, buon agosto da Davide Paolini.